Si apre in mostra, riprende la diretta nella rubrica del giovedì al Breakfast Club. Come ben sapete, seguiamo con attenzione sin dalla nascita della rubrica stessa la sede espositiva a Mamiano di Traversetolo in provincia di Parma, in un contesto piecollinare veramente molto molto suggestivo, come del resto è suggestiva la collezione permanente all'interno di Magnani Rocca, la bellezza della sede stessa, il giardino esterno, insomma è una delle realtà artistiche più importanti su tutto il territorio nazionale e oltre. Personalmente, come ben sapete, come spesso ne parlo, ne sono perdutamente innamorato, anche per il progetto di ricerca scientifica a proposito di un Novecento di percorsi e di selezione anche per quanto riguarda le opere. È già aperta, una mostra è aperta, la scorsa settimana sono andato in presentazione per quanto riguarda Boccioni. Boccioni già l'abbiamo presentato e conosciuto per come è stato diffuso principalmente, cioè con il futurismo, ma prima, prima c'è l'aspetto divisionista. È una mostra dove il mio amato divisionismo trionfa chiaramente via un'introduzione particolare, atipica, ma di una bellezza secondo me che lascia stupore e meraviglia. È una selezione di suoi lavori dedicati all'illustrazione e certo noi siamo avvezzi a un Boccioni che ha la motilità, i percorsi e tutto, e però per motivi economici ha avuto anche un approccio con l'illustrazione quanto mai particolare, e quando uno ha talento si vede anche quando gioca in un ruolo, chiamiamolo così, non esattamente per il quale è riconosciuto. Mi sono venuti in mente grandi atleti, Dennis Johnson che ai Phoenix Suns, ai Seattle Supersonics gioca un determinato ruolo da realizzatore, arriva a Boston, deve mettersi a disposizione della squadra e sarà un successo uno dietro l'altro. Ecco, per farne un esempio con il Moved Groove, per farne un esempio musicale, sarà la colonna sonora di oggi, e tutto il periodo modale che poi diventerà jazz funk in seguito per come lo conosciamo maggiormente, di Herbie Hancock. Infatti questa Watermelon Man che noi stiamo ascoltando è stato uno dei suoi primissimi brani, tratta da Taking Off per Blue Note, e poi ci sarà insomma l'approccio per cui conosciamo Herbie Hancock in maniera più diffusa. Allora, un percorso cronologico anche in musica, un percorso cronologico in mostra, tre curatori, direttore di Magnani Rocca, Stefano Roffi, che presto sentiremo. Apriamo con le realtà di stile che hanno avuto un'influenza, oltre che il divisionismo, anche di un percorso eterogeneo in maniera geografica, da Roma, Venezia, Milano, ognuno con delle specificità quanto mai uniche, sempre dettate da un grande talento. Uno dei curatori soprattutto dedicato a tutto il periodo romano di Boccioni è Francesco Parisi, che appena arrivato alla fondazione ho subito intercettato per dare un'introduzione a questa esposizione a Magnani Rocca, Mamiano di Traversetolo. Sentiamo le sue parole. Stagione iniziale a Magnani Rocca, la prestigiosa sede espositiva che seguiamo è Boccioni. L'analisi è in un contesto per il quale magari noi non siamo avvezzi, cioè prima del futurismo, e appunto la prima domanda che vorrei fare al curatore qua in mia compagnia è: cosa va a specificare, a svelare questa esposizione? Allora, diciamo che la novità che apporta questa mostra, perché Boccioni è un artista appunto di fama internazionale, molto studiato così, è l'approccio investigativo, il progetto scientifico. Diciamo che abbiamo cercato di costruire gli ambienti in cui Boccioni operava in queste prime tre fasi prefuturiste, che sono divise tra Roma, appunto proprio gli esordi, Venezia e infine Milano. L'aspetto di percorso in mostra comprende quindi questa particolarità, e come lo possiamo definire, oltre che a un aspetto giustamente nel percorso geografico che ha dato dal punto di vista artistico? Ovviamente segnano queste tappe un'evoluzione pittorica costante. Ovviamente quando arriva a Roma Boccioni è immerso nell'ambiente del crepuscolarismo romano, per intenderci quello di Corazzini, e soprattutto nell'ambiente dominato dalla Società degli Amatori e Cultori di Belle Arti, quindi un ambiente quasi, possiamo dire, retrogrado e passatista, in un certo senso, per usare una terminologia futurista. Boccioni però si inserisce, è sempre alla ricerca, con le antenne dritte, possiamo usare questa metafora così, di artisti che ovviamente rompevano con la tradizione. Si avvicina insieme al suo amico Severini a Giacomo Balla, che aveva da poco importato a Roma il divisionismo, e quindi è tra i primi a sperimentare questa griglia di colore puro, steso e non miscelato come nella tradizione ottocentesca. E vediamo che ovviamente a Roma c'è questa enorme tradizione paesaggistica, per cui lui si inserisce appieno in questa, come possiamo dire, atmosfera, e uno dei primi dipinti più importanti e più maturi di questo periodo è sicuramente Campagna Romana, che abbiamo in mostra. Dopodiché, a fasi alterne, insomma, anche nel periodo romano, viaggia avanti e indietro a Padova. A un certo punto si stanca di Roma, dice: Roma è tutta una sequela di tradimenti, e quindi fa un primo viaggio a Parigi, che è una sorta di fallimento, diciamo, commerciale, perché non vi trova mercato, come molti artisti di quegli anni che erano andati a cercare fortuna, no? Lo stesso Lorenzo Viani, per esempio, ritorna con le pive nel sacco, come possiamo dire. Fine Ottocento, questo fenomeno italiano storicamente e tecnicamente derivato dal neoimpressionismo, poi il puntinismo, le pointillisme, no, dalla Francia, che è appunto una separazione dei colori in singoli punti o linee che interagiscono fra di loro con l'emozione e la sensazione visiva. Io personalmente ne ho una grande passione, è un po' un jazz modale che sa strutturare la parte del tema in un modo e lo spazio dedicato all'interpretazione nell'assolo dell'artista con un colore diverso ma che interagisce con il tema stesso. Herbie Hancock qui ne dà un esempio mettendo in comparazione tantissimi altri artisti, è una mostra comparativa fra l'altro, è questa Magnani Rock, una mostra stupenda, non ne sbagliano una, eh. Questo bellissimo blues. Abbiamo iniziato la nostra playlist con Watermelon Man, che poi diventerà anche con gli Headhunters, la conosciamo, è uno standard jazz. Ora aveva 21 anni quando l'ha composta, quindi Enfant Prodige, Herbie Hancock, Il Camaleonte, che poi cambierà, come eterogeneo e vagabondo allo stesso modo dal punto di vista stilistico. Ecco, per quanto riguarda il vagabondare anche sul nostro territorio tra Roma, Venezia, Milano, da Venezia sarà un po' deluso, certamente la trova un pochettino statica e legata alla tradizione. Pensate che Boccioni, il suo lavoro, lui voleva fare il giornalista. Nel primo disco comunque hanno inteso certamente musicisti già più attempati dello stesso Herbie Hancock, che il talento c'era in Taking Off. Vicino a lui Freddie Hubbard, Bill Higgins alla batteria, Freddie Hubbard grande trombettista, Dexter Gordon al sax tenore. Qui al tenore in My Point of View troviamo Hank Mobley, e prima abbiamo ascoltato le corde alla chitarra di uno dei miei idoli, Grant Green. Anche a Parigi non è andata benissimo, per così dire. Poi la svolta di visionismo futurismo troveremo in che modo collegati fra di loro, grazie anche a Francesco Parisi. Poi completeremo la formazione per quanto riguarda questa esposizione a Mamiano di Traversetolo. Ora ci soffermiamo sui percorsi geografici. Da Parigi decide di passare un periodo tra Padova e Venezia. Lì ovviamente, come poi dimostra la sezione, così comincia una pittura un po' più ariosa, un pochino più con la tavolozza luminissima. Comincia la vera apertura di Boccioni, fino appunto alla vera strada, no? Definitiva, con l'approdo a Milano, dove finalmente troverà la sua massima espressione con i dipinti che abbiamo sicuramente in mostra. Ecco, una cosa che ci tenevo a specificare è che la mostra non è tutta proiettata verso l'approdo al futurismo, è Boccioni pittore divisionista, ok? Con una strada assolutamente autonoma rispetto ai più invalsi percorsi del divisionismo dell'epoca. Sì, ho trovato molto interessante questo tipo di ricerca per gli artisti che noi riconosciamo ovviamente in maniera più diffusa e diamo subito parallelismo con le opere di cui hanno avuto più amplificazione, trovarli invece, non dico fuori ruolo, però sempre dotati di grandissimo talento, ma in un'altra espressione, se ho inteso bene il percorso in mostra e il motivo di ricerca. Cioè, per esempio, appunto, abbiamo dei dipinti di Carrà divisionista, così come dei dipinti di Doudreville, che è un altro artista considerato artista d'avanguardia, fondò il movimento Nuove Tendenze nel 1914, però qui abbiamo un'inedita versione sicuramente divisionista. Non fate confusione, non credete un po' a quello che viene diffuso, Magic Johnson che gioca da centro contro il Philadelphia 76ers in gara 7 perché Kareem Abdul-Jabbar infortunato, non ha fatto un movimento da centro e non ha preso una posizione da centro, ha preso tanti rimbalzi, non vuol dire giocare da centro, ha giocato benissimo, meravigliosamente a pallacanestro, ma è diverso, eh. È per quello che ho citato altri atleti, proprio per un percorso, un cambiamento certo adiacente legato al grande talento, ai tempi, alle necessità anche economiche, da come sentiremo a breve. Quindi per questo inizio di conversazioni con Francesco Parisi, la musica di Herbie Hancock, il protagonista che è Boccioni, un grandissimo nome a livello internazionale dell'arte, Severini, Balla, di cui abbiamo parlato, è prima divisionismo e poi il passaggio al futurismo. Con Maiden Voyage di Herbie Hancock sempre facciamo uno stacco musicale e poi si rientra per conoscere anche i percorsi non unicamente legati all'aspetto di Boccioni, ma i percorsi e le suddivisioni in mostra. Bon Voyager, Biancock, già maturo, maturo per quanto possa essere ancora giovanissimo in questa sua prima parte di percorso. L'attenzione, allora, George Coleman all'assolo per il sax tenore e il puntillismo, divisionismo sotto le note di Coleman, adesso alla tromba Freddie Hubbard, pianoforte di Herbie Hancock, un vero artista divisionista in questo caso, ma nel jazz. Questa punteggiatura, seppur completamente distaccata dall'assolo, dà un'idea a questo dipinto. Probabilmente un brano che è veramente commento sonoro alla esposizione. Fino al 30 dicembre, la prima parte di stagione, e Boccioni prima del futurismo, un'altra grande mostra a Mamiano di Traversetolo. Adesso copio l'idea, di Art Beats, mi propongo come DJ, come music selector all'interno di queste grandi selezioni. Un'idea un po' ambiziosa, un po'... Che meraviglia! La mostra è basata sui dialoghi, per esempio a Roma, inizia con Roma e troviamo gli ambienti frequentati da Boccioni e così ben descritti nelle memorie di Severini, per cui abbiamo l'amicizia di Boccioni con Sironi, l'amicizia di Boccioni con Severini e con altri artisti quasi oggi sconosciuti dalla grande storia dell'arte, possiamo dire, quella che si può definire la grande arte di minoranza, per esempio Raoul Dalmolin Ferenzona, Guido Calori, che dicono poco al grande pubblico ma che all'epoca avevano sicuramente una certa influenza anche sullo stesso Boccioni. La mostra si apre con una sezione dedicata all'illustrazione, cioè Boccioni ovviamente ai suoi inizi ovviamente la possibilità di vendere dei quadri in quel determinato periodo storico era quasi sempre legato non tanto al collezionismo privato ma al collezionismo pubblico, ma soprattutto nelle grandi esposizioni nazionali. Nel caso di Roma ovviamente si parlava della Società degli Amatori e Cultori, dove gli artisti esponevano a centinaia e dove magari i reali acquistavano dei dipinti, quindi veramente era quasi impossibile vendere dei quadri. Molti si dedicavano all'illustrazione. L'illustrazione in alcuni casi anche all'incisione, perché era di più facile. Sì. Cioè una stampa costava di meno di un dipinto sicuramente, quindi era più facile, no, riuscire a piazzare, che ne so, un nucleo di incisioni o delle illustrazioni per le riviste erano tutte illustrate, quindi c'era lavoro per tutti. Boccioni inizia proprio come la sua attività, anche se a lui poi pesava questa cosa, lo descrive nei suoi diari, però inizia proprio come illustratore. Viene assunto da un editore Racà, che gli commissiona cartoline e varie illustrazioni che lui un po' media da certo tipo di illustrazione inglese che troviamo in mostra proprio in raffronti ben precisi. E questa attività di illustratore continua anche addirittura nel periodo di Milano, perché il problema permane anche ovviamente quando lui giunge a Milano, la questione del sostentamento economico, per cui lì ovviamente acquisisce nel corso degli anni una abilità sicuramente e una sicurezza sicuramente maggiore dei primi anni romani, tanto che arriverà a fare delle illustrazioni per l'Illustrazione Italiana, che era una delle riviste più importanti in Italia di quegli anni. Dovete vedere la prima parte, le illustrazioni, dici ok, è un'introduzione, no, ha un'estetica di una bellezza, il suo disegno che riprende anche immagini di convivio, di sport, di tempo libero, beh, veniva ingaggiato dalle riviste per queste cartoline, no, ma quando uno è buono sa giocare in tutte le posizioni. Cito per le parti dedicate a Venezia e a Milano, co-curatrice Virginia Baradel e Nicolò Dagati per quanto riguarda l'esposizione. Sono riuscito a intercettare Francesco Parisi, che già conoscevo perché ha portato alcune mostre in curatela a Palazzo Roverella di Rovigo. La parte dell'illustrazione introduttiva, ho voluto mettere questo brano che non ha bisogno di introduzioni Cantaloupe, che è uno dei funky jazz, poi diventerà anche rielaborato in acid jazz con gli Ass 3 di Herbie Hancock. Questo è un commento all'introduzione, così con un funky, con questo brano ballabile, leggibile, che indubbiamente però lascia poi adito a un percorso strutturato con la comparazione altri artisti in mostra, Severini, Ball, come ho già citato. E quindi noi concludiamo questa parte di presentazione, rientreremo a breve con Stefano Roffi, il direttore di Magnani Rocca, per dare completezza a Boccioni prima del futurismo. Si procede appunto con la in ordine cronologico, certo. Quindi ovviamente Roma con le varie, è divisa in tre sale, il Cenacolo, diciamo un primo ambiente di paesaggismo romano, un secondo ambiente dedicato al Cenacolo Balla Cambellotti Prini, di cui lui entrerà subito, che era il Cenacolo diciamo tenuto dalla moglie di Giovanni Prini, Orazia Belsito, che era il Cenacolo che raccoglieva i più giovani più all'avanguardia, fino a un approdo pittorico alla prima realizzazione, c'è una piccola saletta dove ci sono già comincia diciamo una maturità pittorica di Boccioni, e qui è il finale della sezione di Roma. Poi arriva Venezia e la curatrice della sezione veneziana, che è Virginia Baradel, ha messo in dialogo la coeva pittura veneziana con appunto gli approdi stilistici, questa pittura che comincia ancora con gli echi bagliani, per arrivare a una pittura veramente luminosa nell'ultimo dipinto della sezione Venezia. E poi da lì si apre tutta la sezione milanese, che segnerà insomma il trionfo del Boccioni divisionista e prefuturista. Se, domanda difficile questa, che di solito rivolgo ai curatori, è come scegliere qual è il tuo figlio preferito, è sempre difficile. Se vogliamo soffermarci su un'opera, quella che in questo momento le viene da citare? Diciamo per affezione personale sicuramente è Campagna Romana, non solo perché citata anche all'inizio, perché mi sono appunto occupato della sezione romana e mi occupo di arte romana tra 8 e 900, però sicuramente tra gli esiti più, diciamo, stilisticamente internazionali, sicuramente l'autoritratto di Brera e il romanzo di una cucitrice. Io la ringrazio tanto e le auguro buona giornata. Grazie. Il romanzo della cucitrice, quello di una bellezza, un esempio di divisionismo, di un'estetica, di un'emozione e poi anche come contenuto, insomma, questa giovane donna che si prende un attimo di stacco dal lavoro e apre il suo romanzo è veramente molto molto bello, insomma, ecco, quindi la scelta dell'opera è arrivata, scelta poi ce n'è una quantità, indubbiamente una mostra molto corposa. Magnani Rocca sarà fino al 30 dicembre, Boccioni prima del futurismo, il Boccioni divisionista, quest'oggi protagonista in mostra, e a breve con Stefano Roffi porteremo la visione del direttore della sede espositiva, e questo è il contenuto odierno della nostra rubrica A Regola d'Arte. La musica è di Herbie Hancock e a tra poco, dopo la pubblicità. Disposizione al funky già si intuiva. Blind man, Herbie Hancock. Il Boccioni divisionista a Mamiano di Traversetolo, Parma, e non poteva mancare ormai il redattore di Radio Città Fujiko, la direzione della sede espositiva con Stefano Roffi. Direttore di Magnani Rocca e ormai redattore di Radio Città Fujiko, Stefano Roffi, per un nuovo appuntamento alla Magnani Rocca. Protagonista Boccioni, che già abbiamo nella conversazione col co-curatore, nella realtà di spostamento geografico da Roma, Venezia, Milano, insomma, oltre che un avvicinamento a quello che sarà poi il futurismo, anche un'importanza in tutti questi cambiamenti. Cosa c'è, Stefano, di diverso in queste città che danno ispirazione a Boccioni? Boccioni in qualche modo è nato vagabondo. Il papà era un dipendente di prefettura, quindi girava l'Italia in continuazione. Umberto nasce a Reggio Calabria, ma casualmente, perché in quella settimana il papà lavorava alla prefettura di Reggio Calabria. La famiglia però era originaria della Romagna, successivamente si sposteranno per varie altre città italiane, Padova, Venezia, Roma, Milano. Sono città che segnano per il giovane artista occasioni proprio di crescita, di confronto. Non resta mai indifferente rispetto a quello che lui trova attorno a sé, a volte anche per antitesi, come succederà a Venezia a contatto con una pittura di paesaggio che lui considerava un po' antiquata, ecco, diciamo. A Roma lui tenta inizialmente la strada, la carriera del giornalismo senza risultati, però riesce a conoscere alcuni editori che lo ingaggiano per la realizzazione di illustrazioni. L'attività di illustratore sarà per molto tempo la fonte di sostentamento di Boccioni. Non riuscirà ad avere successo come pittore immediatamente, questo gli arriverà molto più avanti, però grazie all'illustrazione, meravigliose illustrazioni ispirate talora alla grafica francese, talora a quella inglese, scene di genere, di caccia, scene anche grottesche, di confronto fra la modernità e l'antichità. Ecco, Boccioni dà grandi prove in questa attività e sono opere molto poco conosciute che la mostra mette in evidenza. Poi le opere romane, le opere realizzate nel periodo veneziano e per finire con questa sezione milanese, dove c'è davvero una meravigliosa esplosione d'arte, di visionista, dove vibra in modo molto molto evidente quel dinamismo che tipico. Tipico futurista, ecco, per cui l'artista è noto nel mondo. Il divisionismo sarà poi il tramite per arrivare al futurismo, e non solo per Boccioni, tra l'altro. Aggiungo anche, quante opere troviamo in mostra? È una mostra molto ricca, sono oltre 200 opere. Boccioni è il protagonista assoluto, il principe della mostra, ma sono presenti anche altri grandi artisti italiani del Novecento che lui conosce, con cui si confronta, a partire da Giacomo Ballo e Gino Severini, che conosce. Vabbè, due grandissimi, ecco, li conosce a Roma. Balla è certamente il suo maestro, ma troviamo anche Sironi, Galileo Chini, poi grandi divisionisti lombardi come Previati, Morbelli. Quindi è un continuo dialogo fra Boccioni e altre sensibilità artistiche che sempre gli lasciano qualcosa, anche se lui chiaramente dalla mostra risulta dominatore. E oltretutto ho avuto come la sensazione da questa presentazione che sia trovare un grande atleta che resta con un grande talento anche se gioca in un altro ruolo o nelle sue trasformazioni. Sì, lui ha certamente una grande versatilità. Il periodo divisionista è un periodo evolutivo, ecco, non è un periodo a sé stante. Credo che sia non corretto porre una cesura fra un momento e l'altro. Boccioni è sempre grande, grandissimo, c'è un'evoluzione. Purtroppo muore molto giovane, muore a meno di 34 anni per una caduta da cavallo. La sua amatissima cavalla Vermiglia si imbizzarrisce e lui viene disarcionato, trascinato e muore in questo modo, muore molto giovane, in un periodo in cui si stava avvicinando all'arte di Cézanne, dopo il futurismo, quindi chissà quali sorprese ci avrebbe riservato ancora. Vagabondo non solo nei percorsi ma anche nell'arte, quindi grazie Stefano e ti auguro una buona giornata. È sempre un piacere conversare con te e con i tuoi ascoltatori. Anni muore Boccioni, e per le ferite riportate, essendo stato disarcionato dalla sua cavalla, nome Vermiglia, non lo sapevo della tragica fine prematura, e sapevo anche che lei si imbizzarrisce perché vede un autocarro. Bellissima mostra, è fino al 30 dicembre Boccioni alla Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo. Ci fate un weekend meraviglioso, guarda. E poi avete tempo, come ho detto, estesa. sabato a Magnani Rocca, domenica a Torre Chiara oppure a Fontanellato, a vedere anche il labirinto. Insomma, è una zona che per l'arte, wow! Abbiamo terminato, oltre che la nostra rubrica, anche la colonna sonora dedicata a un Herbie Hancock divisionista. Schema Record con questo In Spring, no? Siamo totalmente l'opposto, siamo in autumn ormai, però con questo brano quasi al termine della rubrica In Mostra. Quindi annunciamo il triplo appuntamento domani per andare in scena, la rubrica del venerdì, a breve l'Edipo Enciclopedico, seguito da Liberi Dentro, la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, e This is Rock and Roll Radio con Angela Zocco e Andrea Gozza dalle 10.30 alle 12.30. Vi do appuntamento a domani, con un caloroso abbraccio mi congedo a voi ringraziando qui per l'attenzione, graditissimi ospiti, anzi di più direi protagonisti a colazione con il Breakfast Club per domani, vigilia di weekend. Un buon ascolto e una buona giornata dal vostro William Piana. Once you made a promise, baby, please don't turn away right now. You say you're gonna leave me. As far as I'm concerned, you are still the only one. There's no comfort in the truth. All I need is just a touch. I was fine just to hang around. Don't you see that you just locked me up? Turn away, don't you lie to me. You upset me, baby, every minute in my life. Don't you lie to me, don't you turn away. You upset me, baby, every minute in my life. As I'm concerned, you are still the only one. There's no comfort in the truth. All I need is just your touch. I was fine just to hang around. Don't you see that you just locked me out, baby? Don't